Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, buonasera anche al nostro ospite Gaetano Cascini. Buonasera a tutti. Professore del Politecnico di Milano, esperto di TRIZ, una teoria dell'innovazione e anche una metodologia per rendere l'innovazione sistematica che fu elaborata nel corso del Novecento dal russo Genrich Altschuler. Cascini, ieri abbiamo visto come Altschuler, dopo aver studiato centinaia di migliaia di brevetti, si è giunto alla conclusione che a patto di astrarre i problemi a sufficienza, i brevetti più innovativi si possono ricondurre all'applicazione di poche decine di principi fondamentali. Sulla base di questi principi poi Altschuler elaborò un metodo, il metodo TRIZ, appunto, che diciamo non risolve i problemi al posto dei progettisti, ma li aiuta a prendere la direzione giusta quando devono affrontare un nuovo problema. Ora però fermiamoci un attimo e domandiamoci: c'è forse scarsità di idee a questo mondo? In realtà no, le idee sono moltissime. Il problema quindi non è tanto quello di farci venire delle nuove idee, il problema quasi sempre è concretizzarle. Ed eccoci al tema di questa sera. Quindi, come trasformare le idee, che sono tante, in realtà? Cascini. Ma allora, questo è un tema assolutamente vastissimo. Quello che mi preme sottolineare è un po' questo. Da più parti si spinge a favorire l'innovazione con l'aumento del numero di idee generate. Io quello che ci tengo sempre a sottolineare è che troppe idee sono difficili da gestire, soprattutto al giorno d'oggi, con poche risorse, per cui è importante perseguire l'efficienza dei processi di innovazione. Quindi scegliere prematuramente le idee buone, le idee efficaci, le idee che hanno effettivamente possibilità di essere impattanti in termini innovativi, e supportare solamente quelle più valide. Ecco, e da questo punto di vista che tipo di contributo può dare TRIZ, ma in generale un metodo per l'innovazione sistematica? Immagino che ne esistano anche altri oltre a TRIZ. Assolutamente sì, ma allora mettiamola così, a prescindere dal metodo che si intende utilizzare, quello che è importante è essere attrezzati per superare quelli che sono gli ostacoli principali, ecco, alla parte di innovazione, soprattutto per quelle che sono le prime fasi, l'ideazione. Gli ostacoli principali sono quantomeno tre, direi. Uno viene spesso chiamato in gergo l'inerzia psicologica, cioè la tendenza a ripetere sempre gli stessi, ecco, percorsi. Tra l'altro noi abbiamo detto ieri che il TRIZ evidenzi proprio come le buone soluzioni di solito rompono gli schemi, no? Quindi il fatto che una soluzione rompa gli schemi in realtà viene percepito come un elemento di incertezza, però, da chi magari deve finanziare una ricerca o qualcosa del genere, no? Questo viene percepito con un elemento di incertezza quando si rompe uno schema andando in una direzione, lasciatemi dire, casuale. O andando alla cieca, diciamo, no? Sperando che quella roba li paghi. Quando invece TRIZ propone di utilizzare dei percorsi solutivi già ampiamente collaudati da centinaia di migliaia di invenzioni che hanno avuto già lo successo nel loro settore, ripeto, percorsi solutivi, non certo, soluzioni specifiche, sì, allora è un po' come dire: la strada che sto percorrendo è stata già validata nel tempo. Un altro ostacolo che sicuramente mi preme sottolineare è che spesso ci si affida a metodi rigorosissimi per tutte quelle che sono le attività dell'ingegneria, tranne nella fase di ideazione, come se questa non potesse essere guidata da un metodo. E quello che TRIZ fa è proprio dare una sistematicità al ragionamento. Diciamo in una parola, ingegnerizzare la creatività. Ecco, dunque Cascini, oggi TRIZ quanti adepti, se possiamo così definirli, ha in Italia? Volevo capire questo per chiudere, insomma. A me non piace parlare di adepti perché le sette in generale hanno una brutta fine. Certo, certo. Diciamo così che c'è di cultori, allora, un'associazione italiana, TRIZ, che si chiama Apeiron. Diversi colleghi lo insegnano all'università in corsi standard per le facoltà di ingegneria. Ci sono diverse aziende che hanno cominciato a fare un percorso sia in Lombardia, nel nord-est, in Emilia-Romagna e così via. Non è diffusissimo, non fingerò questo, però sicuramente ci sono esperienze molto molto interessanti. Dico semplicemente come parallelo quello che succede in uno dei paesi forse più innovativi al giorno d'oggi, che è la Corea del Sud. Ecco, lì la maggior parte delle aziende grandi, parlo di Samsung, Hyundai, LG, Posco, tra virgolette, impongono a tutti gli ingegneri della loro ricerca e sviluppo di avere un minimo di competenza su TRIZ e in generale sui metodi per l'innovazione. Grazie Gaetano Cascini, a voi tutti buon fine settimana, risentirci a lunedì.